passati 8 mesi, e 8 mesi sono pochi, così piccoli e indifesi, poco esperti della vita. Tu mi sorridevi piano, io ti prendevo per la mano, e poi quando ti parlavo quel vizio tuo di guardare su, dimmi la verità, che cosa c'è o perché mi hai scritto ancora? Questa è la nostra età e scrivo a te o perché ci penso ancora? Dammi la libertà di vivere ancora questa storia, perché io con te voglio ricominciare. Stati 8 mesi, già li conto sulle dita, noi non ci siamo mai arresi. Guardavo con quegli occhi azzurro blu.